Il punto di Stefano Folli. Certo, la banca centrale non può sostituire la politica, come dice la Merkel e come diciamo tutti. Tuttavia può dare alla politica, soprattutto a quella italiana che ne ha molto bisogno, una cornice salda entro cui muoversi, un vincolo dal quale non può prescindere. E sotto questo aspetto l'intervento di Draghi ha cambiato lo scenario politico. Da oggi ancora più di come fosse fino a ieri non sono più consentiti alibi e fughe in avanti. Si sa quali sono i problemi, si sa quali sono gli impegni per restare in Europa. La domanda è se le forze politiche saranno in grado di sostenere questa decisiva prova di maturità. Sono le stesse forze politiche che non riescono nemmeno a cambiare la legge elettorale, le stesse a cui il Presidente della Repubblica ha rivolto parole gravi, invitandole ancora una volta a rinnovarsi, ad aprirsi, a far entrare aria nuova nelle stanze chiuse. Come possono questi partiti fra pochi mesi essere in grado di corrispondere alla sfida che Mario Draghi ha messo sul tavolo? Magari sostituendo Mario Monti alla presidenza del Consiglio. Ecco, questo è il quesito, per ora senza risposta, che ci accompagnerà nell'imminente campagna elettorale.